Europa 24. L'Europa a due velocità non può più essere un tabù. Chi non intende compiere un salto di qualità verso una maggiore integrazione capace di assicurare realmente un futuro di pace e di prosperità, non può agire da zavorra per chi vorrebbe farlo. Potrà godere di alcuni benefici, ma non potrà pretendere uguali diritti senza rispettarne i conseguenti doveri. Così questa mattina a Berlino il presidente della Camera, Laura Boldrini. Intanto buongiorno a tutti. Dunque, echi ancora di Brexit che naturalmente ci faranno compagnia probabilmente per i prossimi mesi, per parecchi mesi, e in attesa naturalmente che a settembre vengano definiti i meccanismi, procedure da parte naturalmente del Regno Unito, da parte dell'Europa. Intanto diciamo la cronaca europea racconta altri temi, uno dei quali: la Commissione ha preso la decisione sui bilanci di Spagna e Portogallo, deficit eccessivo, ma comunicherà soltanto nel pomeriggio di oggi le raccomandazioni con una conferenza stampa del vicepresidente Dombrovskis e del commissario Pierre Moscovici. Decisione, dopo la discussione nel Collegio dei Commissari di martedì scorso a Strasburgo, è stata approvata con procedura scritta, come ha spiegato il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas. Tema banche invece, avete sentito ampiamente, ancora una giornata davvero calda su questo fronte. Anche Margrethe Vestager, commissario della concorrenza, interviene, dice: sono sempre in corso contatti continui con l'Italia sul tema delle banche, sottolineando che in merito alla ricapitalizzazione preventiva la nostra posizione, ha detto appunto Vestager, non è cambiata. Parliamo invece di TTIP e dei timori. Il trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti, appunto legati alle posizioni molto divergenti all'interno dell'Unione. L'Europa ha intenzione di intensificare la trattativa, di cui è previsto un nuovo round negoziale la prossima settimana. Domani, intanto, incontro tra Commissione, Consiglio europeo e il presidente degli Stati Uniti uscente, Barack Obama. Tra i pro e i contro potrebbe essere a rischio il TTIP, il trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti, dopo 3 anni e 14 round di negoziazioni Stati Uniti-Europa. E proprio il negoziato sull'accordo TTIP sarà, insieme alla Brexit, al centro del trilaterale tra il presidente Barack Obama e i presidenti della Commissione del Consiglio europeo, Juncker e Tusk, in programma domani mattina, prima dell'inizio del vertice della NATO a Varsavia. Ma i negoziati non si fermano, anche se non si chiuderà entro il 2016, secondo il presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, l'europarlamentare Paolo De Castro. L'Europa va avanti senz'altro, tant'è vero che abbiamo il 14° round negoziale già convocato per lunedì 11. Bisogna distinguere l'aspetto negoziale tecnico da un aspetto politico generale che riguarda le scadenze elettorali. Non c'è dubbio che è difficile immaginare un accordo con gli Stati Uniti entro il mese di dicembre, cioè entro la scadenza dell'amministrazione Obama. Ma la Brexit non cambia assolutamente nulla. L'obiettivo del TTIP, abbattere le barriere tariffarie e non, secondo uno studio di Bruxelles, vorrebbe dire un aumento del PIL italiano tra lo 0,3 e lo 0,5% entro il 2030, ma secondo altri studi il rischio e l'impatto ambientale e i rischi per il gap di tutele tra Europa e Stati Uniti. Non la cambieremo certamente la legislazione europea con l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, né cambieranno le leggi federali americane sulle tariffe. Già si è largamente raggiunto 97% di riduzione delle tariffe, un'area così ampia dove un terzo del commercio mondiale ci potrà circolare senza dazi, senza pagare tasse. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine notizie dalla riunione informale dei ministri dell'interno europei a Bratislava. Parla Dimitris Avramopoulos, dice: in questi giorni ci sono voci che l'Europa sia divisa, non è così. Il voto dell'Europarlamento sull'agenzia europea dei guardiacoste e guardie di frontiera, dice, è la prova che l'Europa è unita, e oggi questo Consiglio Affari Interni UE sarà un'opportunità in più per rafforzare ed approfondire la cooperazione. Insomma, sui ricollocamenti dei profughi da Italia e Grecia le divergenze di opinioni non significano necessariamente conflitto, dice appunto Avramopoulos, ma quando si parla di soluzioni più permanenti si dovrebbe tenere in mente che non ci si deve focalizzare solo sulla solidarietà tra Stati membri, ma anche su misure per rafforzare il controllo delle frontiere europee. Così invece il ministro per la sicurezza olandese Klaas Dijkhoff al suo ingresso appunto all'incontro di Bratislava. E con questo direi che è tutto per le notizie dall'Europa. Adesso, come di consueto, l'appuntamento con lo sport, tutti convocati, noi ci risentiamo domani. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.